Io mi guardo nei tuoi occhi, celesti come il mare più profondo dell'Africa, come il cielo prima del diluvio universale, come le nuvole nel primo giorno di primavera e come le ali di una piccola farfalla celeste. Celeste è il mio primo pensiero la mattina, quando mi sveglio e so che per tutto il giorno potrò tenerti vicino. Il giorno che è nato il paradiso era un giorno celeste, il giorno che è nata la luna era un giorno celeste e il giorno che sei nata tu era un giorno meraviglioso e celeste. E come i poeti, i pittori, gli scrittori hanno parlato di te, oggi ne ho parlato anch'io, celeste.